Dal buio alla rinascita. Cosa succede dopo i Micenei? Immaginate di essere in un popolo pieno di città splendide, come quelle micenee, e poi, puff, quasi tutto scompare. Cos'era successo? Un tempo difficile, i secoli bui. Perché tante città crollarono intorno al 1200 a.C.? Perché accaddero tante disgrazie tutte insieme. Popoli che arrivavano da lontano, guerre, ribellioni, cambiamenti del clima, le città micenee vennero distrutte o abbandonate. Era davvero tutto solo buio e rovina? No, mentre molte cose cadevano, altre nuove iniziavano a nascere. Nuove idee e nuove invenzioni, ma chi portò le novità? I popoli del vicino Oriente, i Fenici, gli Ittiti, gli Assiri, gli Aramei. E ma che cosa portarono? Nuove tecniche per coltivare i terreni secchi, come canali, profondi pozzi, macchine per tirare sull'acqua, l'arte di cavalcare i cavalli, la scoperta e la diffusione dell'uso del ferro, che era molto più resistente del bronzo, e una scrittura molto più semplice, con solo 20 lettere, l'alfabeto, da cui derivano il nostro, quello ebraico e quello arabo. Ma a che cosa serviva una scrittura così semplice? Beh, a far scrivere e leggere molte più persone, non solo gli scribi specializzati. Tre grandi cambiamenti nel Mediterraneo. Tre grandi processi cambiarono il Mediterraneo. Le città rinacquero. Fra l'VIII e il VI secolo comparvero tantissime nuove città: Atene, Sparta, Cartagine, Roma, Siracusa. Molti popoli iniziarono a lottare per dominare questo mare, il Mediterraneo, gli Assiri, i Persiani, i Greci, i Macedoni e infine i Romani. E nacquero anche nuove idee e nuove religioni. In Grecia si sviluppò la filosofia, in Israele la religione di Mosè. Era un'epoca piena di pensieri nuovi. Ma da dove vengono i Greci? Beh, i Greci discendono da tanti piccoli gruppi di contadini che arrivarono piano piano da varie zone, Balcani, Ucraina, Turchia, e si stabilirono nelle terre lasciate vuote durante la crisi. Così, mescolandosi con chi era già lì, nacquero i diversi gruppi greci, i Dori, nel sud del Peloponneso, gli Ioni, in Attica e sulle coste della Turchia, gli Eoli, nella Grecia continentale, e i Ciprioti a Cipro e in Arcadia. Il Medioevo ellenico, un tempo senza scrittura ma pieno di cambiamenti. Come dicevamo, per circa 5 secoli non si usò più la scrittura micenea. Ma non fu un periodo barbaro, fu un'epoca di prove, di esperimenti, di trasformazioni. Come vivevano allora le persone? In piccoli villaggi, con una grande casa dove si riuniva la famiglia nobile, l'oikos, e tante case più piccole dei contadini. Le tecniche agricole miglioravano pian piano e la popolazione cresceva. Ma come si passa dai villaggi alle città? Alcuni villaggi si unirono per difendersi meglio, perché avevano uno stesso luogo sacro. Questo processo si chiamava sinecismo, cioè mettere insieme le case. Così nacquero proprio Atene, intorno all'Acropoli, la città alta dei templi, e Sparta, formata da villaggi sparsi senza riunirsi in un'unica città. Ma chi comandava nelle nuove città? C'erano re potenti come quelli micenei? No, c'erano i basileis, che erano nobili proprietari di terre ed erano più simili a capifamiglia che a veri e propri re. Intanto cresceva anche il numero degli artigiani, dei mercanti e delle persone che lavoravano nelle officine e iniziavano a commerciare sulle rotte fenicie. Le città avevano due grandi problemi: una divisione sociale tra nobili e popolo e la mancanza di terre per nutrire tutti. Come cercarono di risolverli? Alcune città decisero di far partire gruppi di persone verso terre nuove, oltre il mare, e fu l'inizio delle colonie. La prima fu Pitecusa, fondata nel 770 a.C. dai greci di Calcide, nell'isola di Ischia. Poi vennero Naxos, Messina, Cuma, Taranto e molte altre città dell'Italia meridionale chiamata Magna Grecia, cioè Grande Grecia. In sintesi, dopo la fine dei Micenei, il mondo cambia molto. Arrivano nuove invenzioni, ferro, alfabeto, tecniche agricole. Nascono tante nuove città. I greci non vengono da un solo popolo, ma da tanti gruppi di contadini che si spostano e si mescolano. I villaggi si uniscono e nascono le polis come Atene, Sparta e molte altre. E per trovare terre nuove i greci fondano colonie in Italia e in tanti altri luoghi.